Effetto Mondo. We don't have certainty, and there is significant evidence that this came from the laboratory. Those statements can both be true. Buongiorno Giulia Crivelli, rientriamo con le parole Buongiorno. Di... Sì, era la voce di Mike Pompeo e stava facendo quello che Forbes, per esempio, definisce il White House backstepping, cioè il camminare all'indietro che sta facendo la Casa Bianca. Mike Pompeo, segretario di Stato, lo abbiamo citato nei giorni scorsi perché aveva fatto queste accuse dicendo di avere le prove ma semplicemente di non poterle ancora mostrare per ragioni di sicurezza nazionale, sostanzialmente di avere le prove della fuoriuscita di questo coronavirus dal laboratorio cinese di Wuhan. Ieri, di fronte a domande pressanti della stampa, alla quale appunto aveva implicitamente promesso di far vedere le prove a tempo debito, ha detto: ma sì, potrebbero essere vere entrambe le cose, sia che sia stato veramente così oppure no. Ed è insomma è negare quello che si è detto soltanto 3 o 4 giorni prima. Mi ripeti l'espressione americana che si usa? Backstepping, cioè to step back, quindi fare dei passi tornare indietro, proprio quindi sui il verbio, passi. Il backstepping. Okay. E, i giornali americani però ovviamente seguono soprattutto le reazioni della Cina a questo punto, perché di fronte alle accuse di Pompeo la Cina ha reagito e sappiamo che non ha reagito bene, e quindi soprattutto New York Times e Washington Post, ma anche Wall Street Journal, dicono comunque continua questa guerra diplomatico-economica tra appunto Pechino e Washington, e vedremo i prossimi passi. Senti, sempre sulla stampa americana mi segnali che si parla anche delle conseguenze economiche della situazione, con un'attesa, cioè il dato sui siti di disoccupazione è impressionante. Sì, oggi è giovedì, quindi come sappiamo arrivano i dati settimanali, quindi si aggiungeranno milioni di richieste a quelle che già sono arrivate nelle scorse settimane. A questo punto tutti i quotidiani, in generale i media dicono purtroppo possiamo concludere che è sicuramente questo il mese peggiore per il lavoro, fatte tutte le debite proporzioni e aggiornamenti che gli Stati Uniti abbiano mai vissuto. Qualcuno si consola citando la banca Bank of England, che ha detto ieri ha dichiarato è la peggior recessione economica dal 1706, quindi da tempi diciamo pre-capitalistici. Quindi insomma la situazione è grave per tutti, tra l'altro negli Stati Uniti continua a esserci il problema di far arrivare questi stimoli, quindi questi sussidi direttamente agli americani, perché che ne dica certa, la chiamerei propaganda, neanche informazione giornalistica qui da noi, in realtà sono moltissime le persone che negli Stati Uniti quei 1000, 1100, 1200 dollari non li hanno ricevuti, anche lì la burocrazia forse un pochino più semplice che da noi, ma non così semplice, e quindi in vista di quello che probabilmente arriverà di un nuovo pacchetto di stimoli, spiega il Wall Street Journal, si sta studiando un modo perché veramente sia questa volta più veloce, perché è vero che gli Stati Uniti stanno riaprendo, ma comunque chi è rimasto senza lavoro per un mese e mezzo, con la giacenza media sui conti correnti che negli Stati Uniti è bassissima perché non c'è praticamente risparmio privato, ovviamente è già in difficoltà adesso, quindi è importante questo nuovo pacchetto e come verrà velocizzato. Abbiamo anche il nostro Trump quotidiano, giusto? Sì, dai, sentiamo anche Trump, perché anche lui ha fatto un po' di backstepping. I can't help it if you didn't see me. I had it on backstage. But they said you didn't need it. So if I didn't need it. Che dice? Sì, l'abbiamo detto ieri, è stato molto criticato perché durante la visita a questa fabbrica che si è, tra l'altro per quel che se ne sa, è stato il suo primo viaggio lontano da Washington ai tempi del lockdown, è andato a visitare questa fabbrica che si è riconvertita alla produzione di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale, e lui non aveva la mascherina, gli è stato fatto notare e ha risposto: no, ma io in realtà quando non mi vedevate l'avevo. backstage, e poi comunque mi avevano detto che non era necessaria. Anche qui, in giornate in cui, per esempio, in California è stata appena resa obbligatoria, sicuramente lo sarà in tutte le stazioni, negli aeroporti, sui mezzi pubblici, di nuovo sembra un po', appunto, dire una cosa e poi anche, o comunque non dare il buon esempio, ecco, mettiamola così. Ma volevo citarti un titolo di un articolo che mi è sembrato molto, molto, molto sintetico, ma anche giusto. Sì. Liberation, che dice: in questo momento i sindaci, sappiamo insomma quanto il tema sia forte anche in Italia, sono gli artigiani che devono trovare una soluzione alla crisi, soprattutto all'uscita dal lockdown. E trovo che sia, perché anche in Francia c'è questo tema, no? Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. È vero che sono poi le persone che sono veramente sul territorio che possono fare quel mix, avendo presente bene le difficoltà di quello che hanno intorno, e per questo tutti chiederebbero un po' più di libertà. Lo diceva anche la tua ospite prima: in Germania ogni Land può fare in teoria può fare un po' come vuole. La Merkel ha cercato di accentrare il più possibile le decisioni, si suppone per il bene comune, ma adesso cominciano a esserci tanti malumori su queste imposizioni da Berlino, per situazioni che geograficamente sono diversissime dal punto di vista dei contagi e anche delle strutture sanitarie. Intanto volevo dare una notizia che mi era sfuggita poco fa: è stato trovato l'accordo per il via libera alle messe in Italia dal 18 maggio, quindi le scuole possono tranquillamente aspettare, ma si potrà andare a messa tranquillamente dal 18 di maggio. Lo dico con voluta ironia, perché personalmente non sentivo il bisogno di questa decisione, magari sulle scuole qualche cosa sì, ma sarà che sono genitore di due bambini, mi sembra, come dire, diciamo il commento alla notizia. Giulia, invece in Francia, sì, da quello che mi segnali, mi sembra di capire che si vivono problemi molto simili a quelli che stiamo vivendo noi, cioè sulla strategia per la fase 2. Sì, è molto interessante il punto di vista di Le Figaro, che sicuramente è un giornale non di centro-sinistra, non è neanche politicamente particolarmente schierato, però sicuramente la posizione è: il paese deve ripartire, questa economia sussidiata non è una soluzione di medio periodo. E però parlando con molte persone si capisce anche come in Francia, tutto sommato, proprio da un punto di vista psicologico, e questo viene dai dati raccolti dalle varie associazioni, ma anche dalla quantità di psicofarmaci che vengono venduti, questo vale anche per gli Stati Uniti, non sarà così semplice dopo 2 mesi di lockdown riabituarsi a vedere le persone, a trovare il giusto distanziamento con gli estranei o con i conoscenti. Credo che insomma, tutti, lo vedo su di me, ma penso anche tu, Alessio, chiunque, è una modalità effettivamente, va trovato, ecco, dobbiamo essere un po' gli artigiani di noi stessi nel ritarare gli ingredienti della nostra socialità, e quindi sì, forse questa zona, questa comfort zone, forse insomma sì, certo, ci annoiamo, magari appunto siamo in tuta tutto il giorno, però ha i suoi vantaggi, siamo, ecco, tranquilli, un po' una tana, ecco, certo, le case... Si torna sì, nella mischia, e c'è anche chi ha proprio apertamente anche paura. Ieri abbiamo reso conto di un sondaggio che il 40% degli italiani pensa che la fase 2 sia prematura, quindi c'è anche questo, certo, tra anche chi in ci Francia, sta intorno. Infatti. Ecco. Allora, ancora un minuto o due, anzi, per le altre notizie, Giulia. Sì, se vuoi, insomma, abbiamo parlato di crisi negli Stati Uniti, ma naturalmente c'è la crisi europea. I giornali spagnoli danno conto di questi dati che vedono Spagna, Grecia e Italia, come sappiamo, avere le previsioni peggiori per il 2020. Financial Times ha la foto di Paolo Gentiloni, che è il commissario agli affari economici della Commissione europea, quindi un po' il ministro dell'economia dell'Unione europea, alle sue spalle una di queste slide impressionanti con questi grafici. Ma ho trovato molto interessante su Financial Times questa analisi, quella che in termini anglosassoni viene definita la class of 2020, che non sono i nati nel 2020, ma sono quelli che si laureano nel 2020. E in effetti scenario peggiore non potrebbe esserci, perché indipendentemente dalla istruzione che si è riusciti ad avere, parliamo di istruzione universitaria, si affronta un mercato del lavoro dove tutti hanno avuto dei problemi. Naturalmente le fasce più colpite sono quelle dei lavori meno qualificati, ma non solo. E quindi insomma anno peggiore per affacciarsi sul mercato del lavoro non potrebbe esserci, e molte aspettative anche di persone che magari hanno investito tantissimo nella loro istruzione universitaria saranno per qualche anno molto frustrate. Ed è effettivamente un tema, come sempre insomma le due categorie più colpite nelle crisi, scrive Financial Times, sono i giovani in generale, ma anche i bambini in una crisi come questa, e le persone naturalmente che partono con uno svantaggio economico, appunto sono i primi lavori a saltare. Va bene, chiudiamo allora. Grazie Giulia, ci risentiamo domani con te e anche con gli ascoltatori per quanto riguarda la puntata di Effetto Giorno, oggi con Filippo Reggi regia, Elisabetta Fusconi in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione. Ciao da Alessio Maurizio, buona giornata.